Zolt. Fulminati in azienda. Il cliente non crede più alle aziende che parlano solo attraverso la pubblicità tradizionale. Bisogna fare guerriglia marketing, stare sul campo. Scusa un attimo, Fonte, vorrei sapere cosa ne pensa il nostro super consulente, PG. Credo che sia necessario essere visibili sul campo. Uno spot in TV non basta più. Vedi? Ma lo sai che mi hai convinto, consulente? Strano. E cosa vuol fare Font per renderci più visibili? Che idee hai? Per esempio, sostituiamo le auto dei venditori. Li facciamo andare in giro per la città con piccole auto scattanti coordinate con i colori aziendali. Un'automobilina color prugna, una prugna, tante prugne in giro per la città. Beh, certo, sarebbe un bel modo per essere visibili. La prugna stimola un movimento nella mappa percettiva del pubblico. Scusami, che la prugna stimoli il movimento lo sapevo. Comunque, visto che mi fa risparmiare sul parco macchine, va bene. Basta coi macchinoni da rappresentanza che tra l'altro consumavano come delle bestie. Ma vuoi che facciamo un sondaggio fra i venditori prima? Ma perché, Font? Io conosco i miei uomini come le mie tasche. Saranno favorevolissimi all'auto color prugna. In questo caso, niente sondaggio. Il prugna quest'anno piace a tutti. Poi è terribile. Adesso cosa facciamo? Intanto stai calma, schedula che la fine del mondo è prevista nel 2012. Quindi abbiamo ancora 2 anni, dico no, due di no, tempo. No, noi non ci arriviamo al 2012. Uè, aspetta un attimo. Si dimettono. Ma capisci? Perché dovrebbero dimettersi i venditori? Pacco è andato a consegnare una ad una le auto di rappresentanza color prugna a tutti i venditori. E ormai c'è la rivolta. Ma capito? Perché? Voglio capire perché. Chiamiamo subito Pacco. La Medisi, dottore, eccomi. Eccoti qua. Allora, che cosa sta succedendo con i venditori a cui consegni le auto? Robe de matti. Che cosa? Che I cosa? Venditori che erano abituati a usare l'auto aziendale anche nel weekend con la fidanzata per portare i figli a scuola. Se vergogna girare con un'auto viola. Allora, intanto A, le auto non sono dei venditori ma sono dell'azienda. E poi B, i venditori non capiscono che non sono solo venditori, sono anche dei promotori della nostra immagine. Sì, solo che dici che con la macchina color prugna sedemo un'immagine de merda. Messo. Buonasera, Maga. Siete qua per la rivolta dei venditori, no? E come va a saperlo, Maga? Maga sono... Ma l'avete detto voi che volevate fare i venditori uomini immagine? Sì, è vero, ma come fa a sapere dello sciopero anche? Ma che... Allora, non lo sapete che i venditori ci interessa solo una immagine, la loro. E poi la macchina per il mascolo è un simbolo di status, un segno di virilità. Più grossa la macchina è... Ma lei come si sentirebbe andare in giro con una prugna rinsecchita, dottore? E c'ha ragione, a Marco siamo degli ingenui. Ma io che sono maga vi ho preparato i numeri della fottuna. E ce li giochiamo? Sono i numeri della società di leasing che dovete chiamare per fare riavere venditore una macchina seria, aggressiva, da uomini veri. E delle auto color prugna cosa facciamo, maga? Quelle ce le dà dalle dipendenti femmine che di auto non capiscono niente, però ci piacciono intonate al colore della borsetta. Ma lo sa, maga, che io non so come ringraziarla. Lei ogni volta ci dà dei consigli straordinari. Arrivederci. Allora, potete pagare al mio assistente, prego. Maga, ha assunto un assistente. Ah, c'era uno dei vostri venditori che si sono licenziati è venuto a lavorare qua. Perché quelli scacci lo capiscono subito qual è il business che tira di più. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.